stare attento, mi hanno detto che ha già fatto Sanremo. Con questa qua sta sempre embriaca, e oggi anche di più l'hanno riesumata. C'è vera più, è una donna ormai bruciata. Schino del 6 o 7 volte è andata giù. Zitto di indonaggio, me devi ringraziare. Baciami le chiappe, se sto ancora qua. Catti pure vole, a ci fai caga. Lasciami da sola, te le devi andare. Va a cucire le borse false, trova di un lavoro e non tornare mai. Campare con questa samba, devo stare quassù. Su questo palco non si può sentire, e ancora canta ma la voce non c'è più. Mi pare mi chiù, fa culo malato. Lo vedi come stai? Prova a specchiarti di più. Stai troppo male, ma fattela pianta il culo, perché ti va a ammazzare. C'hai le allucinazioni, ma perché stai ancora qua? Dai cambia spacciatore, questo non va. Ma dai rotto i coglioni, dai resisti che il dottore arriverà. E va il cazzo, per campare con questa salva devo stare quassù. Su questo palco non si può sentire, e ancora canta ma la voce non c'è più. Ma pari Richard Benson, battaglio in due lettere, sei uscita dalla ringa, sai vomitare anche tu, sei un vitale dal gesso.